Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Un saluto affettuosissimo a tutti voi cari ascoltatori da parte di Gesi e di Antonio. Allora Antonio, siamo arrivati ormai quasi a Natale. A ridosso proprio. Sì, beh dai, mi sembra ieri che era Natale e ormai anche 2013 sta volgendo proprio al termine. Esattamente. Bene, allora. E noi diamo un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che accogliamo in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo la possibilità di ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare un saluto cordiale al nostro regista e al nostro coordinatore. Chiaramente. Al nostro angelo custode, il nostro regista. Bene, allora Antonio, stasera abbiamo un ospite virtuale graditissima. Esatto. Graditissima, che è già la terza volta che è nostra ospite, no? Esattamente. E allora, per accoglierla e per dare così il saluto di benvenuto ai nostri ascoltatori, cominciamo con un... Beh, stasera faremo tutti i canti natalizi, no? E incominciamo con La notte di Natale cantato dal coro della SAT. In studio con la nostra ospite virtuale graditissima, la signora Elide Bellotti Imperatori da Bassano. Buonasera. Buonasera a tutti, bentornata fra noi. Grazie. Come sta? Sta bene? Abbastanza, grazie, ringraziamo il Dio. La buona salute è sempre una cosa importante per noi. Assolutamente importante. Sì. Certo. E noi siamo felicissimi di averla qua stasera, che è il... dopo poi andiamo in ferie anche noi, fino a dopo le feste natalizie. Certo. Benissimo, allora le diamo la parola. Grazie. Cari ascoltatori, buonasera. Un ritrovarci questo, molto importante, a pochi giorni dalla grande festività del Natale. Mi auguro quindi che tutti godiate per l'avvicinarsi della tanto significativa ricorrenza da godere in vera pace con i vostri cari. Non esiste infatti una festa se non vissuta con altri, in particolare familiari, piccoli e grandi, da riunire intorno ad una tavola imbandita o davanti a un presepe o ad un albero di Natale per cantare o recitare poesie insieme. A questo proposito volevo iniziare con una molto bella e significativa, a mio avviso, poesia del mio amico Gino Pistorello. Ah, benissimo. Ecco, penso che tutti abbiate fatto il presepe o vi apprestiate a farlo, soprattutto per la gioia dei piccini. Dei bambini, sì. Ecco, a tale proposito quindi vi leggerò questa poesia che è intitolata Il me presepio. È una, diciamo, sequenza di tenere immagini, ma ancor più di un sentimento di amore per la madre che da poco era mancata. Il me presepio. In fondo a quel suo mondo de carton e il bambineo de terra e gli angioletti, San Giuseppe a Madonna in oración, dentro la paia, aspetta che stasera come una volta mi li tire fora, col muschetto e con l'acqua quasi vera, le montagne di soca di rubin, le piegore, le stee, l'elefante, i pastori e la casa col mulin. Adesso, me mamma, se partia da sola per vedere il presepio in paradiso, con gli angioli che sono la mandola. Così non posso dire l'orazione se nella grotta se smorsa il lumin. Go voglia di star solo in un canton come il bambin de terra e gli angioletti che in fondo a quel suo mondo de carton aspetta sempre, quieti, quieti, quieti. Ah, molto bella, molto bella, molto bella, delle immagini molto suggestive. Sempre, sempre, direi che appunto a Bassano noi onoriamo molto Gino Pistorello, ecco, anche mancato ormai da anni, però è molto ricordato, perché sono delle immagini estremamente tenere a mio avviso, ecco, poi un bellissimo dialetto anche come è scritto. Dolce, sì, molto dolce, sì, molto sì. Tenero proprio, insomma io, così a parte che queste poesie l'ho sempre anche sentite recitare da lui, ma trovo che veramente danno poi l'idea proprio del Natale, non so, di un qualche cosa, ecco, che c'è nell'aria in questi giorni, anche se sono giorni un po' particolari. Ecco, sì, però ecco. Insomma, qualcosa, guai se si perdono queste tradizioni. La città per quello ha questo senso della festa e dell'attesa, ecco, anche se appunto lo sappiamo tutti il momento un pochino difficile, un po' tragico, sì, che stiamo attraversando. Ecco, io però credo di essere sempre stata una donna di speranza e quindi continuo a dire abbiate pazienza, pazienza, siate buoni, non vi inasprite perché intanto non serve, torneranno tempi migliori. Speriamo, signore, speriamo, dobbiamo proprio augurarcelo, io certo, credo. Certo. Proprio augurarcelo. Quindi, allora dicevo proprio queste belle riunioni familiari, della tavola imbandita, del presepe, dell'albero di Natale, veramente ci riportano anche all'infanzia, ai tempi vissuti, quando recitavamo la poesia di Natale o nascondevamo la letterina sotto il piatto dei nostri genitori. Sì. Allora mi torna alla mente una frase che fioriva in questa occasione sulla bocca di mia nonna, una nonna di lontana ascendenza romana, la nostra famiglia lo è da almeno 9 generazioni, ecco, brusca, fiera, di poche parole normalmente, ma che nell'occasione del pranzo natalizio esclamava guardandoci negli occhi: buon pranzo a tutti, in santa pace e carità. Quel carità mi piaceva molto, adesso lo dico anch'io ai miei cari, perché le ho sempre attribuito il significato profondo che la riveste, proprio quello della carità dei sentimenti e quindi dell'amore verso tutti. Sì. Allora voglio in questa occasione inviare questa frase, questa stessa frase a tutti voi. Grazie. Buon Natale in santa pace e carità. Grazie, grazie, molto bella questa frase. Sì, questo molto... caritas, poi dico studiando il latino o leggendo, non so, epistole così o leggendo il Vangelo, cioè il senso della carità è proprio quello dell'amore verso il nostro prossimo, verso tutti, quindi questo buon Natale in santa pace e carità vi raggiunga ovunque voi siate. E noi la ringraziamo, a parte anche dei nostri ascoltatori, perché grazie, interpretiamo sicuramente. Ecco. Bene. Pensiamo a una bella musichina di Natale e poi torniamo a raccontare. Va bene, va grazie. Bene. Allora, adesso io le faccio ascoltare i bambini. Sì, benissimo. Allora, adesso ci ascolteremo Buon Natale in allegria, sì, cantata dal coro antoniano. Eccoci qua, signora. Buon Natale in allegria, buon Natale in compagnia, quello che stavamo dicendo all'inizio. Di questo nostro Io ho pensato, tradizione. La signora ama i bambini, facciamo ascoltare un po' dei bambini. Ma certo, vedi che ho un po' di rimpianto di non poter essere andata a vedere cantare il mio nipotino. Oh, c'è andata dispiace, tutta la famiglia e ho detto pazienza. Va. Mi dispiace, signora, no, ma abbiamo no, un nostro tecnico. Non ha importanza, ma mi farò ricantare le canzoni tutte per me. Ecco, brava. Bene. Ecco, allora torniamo un po' a narrare di Bassano, così come abbiamo fatto nelle due precedenti trasmissioni, ecco, riallacciandoci ai quadri, ai tableau vivants della ballata del millennio. Ecco, questa volta voglio condurvi con me negli stessi luoghi, ma in un lontano Cinquecento, in un animato mercato, lo stesso che con voce e immagini è stato vissuto appieno da uno dei grandi pittori del Cinquecento nato in questa città, Jacopo da Ponte, detto poi il Bassano. Ecco, dipingere il suo, compreso dal grande pubblico, per le tematiche che in paesaggi, animali, scene di vita entrano senza forzature in rappresentazioni sacre. Noi sappiamo che la pittura è sempre stata espressione di religiosità o di filosofia e dovranno arrivare poi le pitture del Seicento per dirci che nascono i quadri da stanza, cioè oppure i paesaggi. Ecco, fino ad allora la pittura è quasi sempre espressione di religiosità o di alta filosofia e quindi possiamo dire che Jacopo fu un pittore invece di genere, anticipando i tempi, perché lui descriveva anche tutto quello che vedeva, quindi c'era sempre una scena di religiosità, ma unita ad un mondo minuto, ad un mondo che era proprio una descrizione pittorica, che riusciva addirittura a narrare la storia economica di Bassano tra quel 500 e il 600, rappresentando proprio la vita comune, la vita di ogni giorno. Ecco, e anche tutto ciò che si poteva vendere ed acquistare in occasione di mercati e fiere. Quindi quando noi abbiamo ricreato la corposa vitalità di un mercato cinquecentesco per la ballata nella piazza più antica della nostra città, è stato rivivere uno squarcio di storia che diviene mosaico composito proprio di volti, di voci e gesti di reale quotidianità. In esso tornano infatti personaggi d'epoca, umili ed importanti, situazioni che ancora trovano risonanza e pregnanza fra le antiche pietre del piazzotto Montevecchio. Contadine, artigiani, mercanti e compratori, musici e nobili, giovani, donne e bambini si mescolano infatti in una coralità, quella stessa che ancora oggi nell'inarrestabile scorrere del tempo viviamo nel terzo millennio. Il Museo di Bassano raccoglie la pars magna dell'opera di Jacopo, fra le quali campeggia una celebrazione bellissima del Natale che in questi giorni è visitata dai bambini delle nostre scuole in un itinerario natalizio e è da molte persone per una stupenda pala d'altare intitolata Adorazione dei Pastori. Anche qui c'è un gente minuta, ci sono i poveri pastori che accorrono a visitare il bambino Gesù con piedi sporchi e nudi, portando gli animali che sono i loro compagni di quotidianità. Ecco, e questa Madonna così bella, questa giovane donna dal volto pieno, così come noi conosciamo la bionde venete di bellezza pastosa dai bei volti, no? Molte volte dipinte dai pittori veneti, ecco, e questa donna bellissima che scopre il bambino per mostrarlo con delle mani stupende, che alza questo piccolo velo e questo bambino che dorme, ma è un neonato, non ha aureole, perché Jacopo non dipingeva mai aureole, però c'è questa sacralità del momento stupenda proprio. Quindi questa pala d'altare, che era stata appunto dipinta da Jacopo, campeggia nel grande salone del Cinquecento proprio a ricordare la nascita del bambino Gesù. Quindi direi che è un momento molto importante. Mi è caro ricordare questo grande pittore perché nella nostra città è una presenza importante, sia per quanto possiamo ritrovare di lui nel museo, ma soprattutto perché è come se lo sentissimo nell'aria. Certo, certo. È come se lo sentissimo nell'aria. Tra l'altro, quindi, ecco, vogliamo molto bene a Jacopo da Ponte, ecco, almeno io per parte mia. Certo, certo. Ecco, perché veramente una cosa... Io ho seguito molto i bambini al nostro museo con degli itinerari didattici preparati ad hoc con il dottor Fernando Rigon, che allora dirigeva il nostro museo, e la nostra sezione didattica, pensi, no, è stata la seconda d'Italia dopo quella degli Uffizi di Firenze. Addirittura. Non c'è, sì, non c'è, beh, nel 79, nel 1979, non c'era neanche né a Palazzo Chiericati, né, sono tutte arrivate dopo di noi, ecco. Io so che questo è un legittimo orgoglio. Sì, tra l'altro, poi, sì, veramente con orgoglio questa esatto, cosa, mi piace raccontarla. Esatto. E vi dirò che vivere un itinerario natalizio con i bambini nelle sale del museo è una delle esperienze più belle che possano essere date da vivere. Esatto. Proprio, Jacopo era, ecco, era parte di una dinastia rinascimentale, se non erro. Certamente, perché lui, dopo di lui, i suoi figli, lui era già figlio di un pittore, esatto, che è il vecchio da Ponte, però che è chiamato Francesco il Vecchio. Lui è Jacopo, il figlio, e avevano una grande bottega, una bottega che produceva molte cose, potevano fare dorature di cornici o di seggiole, ecco, e poi grandi quadri, grandi opere, che venivano mandate un po' in tutta Italia e che ora sono in tutto il mondo, diciamo. Esatto. Ecco, e i suoi figli hanno continuato a mantenere questo lavoro anche dopo la morte di Jacopo, e quindi si è protratto per tutto il Seicento. Ecco, sono stati una grande famiglia di pittori, veramente grande, anche perché Venezia e il mondo intero conservano ora tutte queste opere. Sì, sì. Ecco, perché il maestro aveva aperto la strada, poi c'era la scuola di pittura. Ecco, non ecco, erano proprio all'altezza del padre, però ugualmente dei bravi pittori, la insomma, soprattutto bottega. Francesco, esatto, e Leandro, ecco, dei suoi quattro figli maschi. Bellissimo. Comunque è una storia importante, sì, ecco, certo, una pagina di storia importantissima della nostra città. Allora, se volete far ascoltare ancora un piccolo brano musicale e poi cambiamo tema. Benissimo, allora ascoltiamo la terza canzone. Benissimo. Che è Jingle Bell Rock. Ecco, benissimo. Ecco, è cantata da George Tracy. Jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air. What a right time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. Go gliding in a one-horse lane. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingle. eccoci di nuovo in studio con la nostra signora Eli. Eccoci qua, signora. Ecco. Allora, tornando a narrare, io voglio vivere con voi dei tempi più vicini ai nostri. E quindi lasciate che vi conduca in una cucina di casa contadina agli inizi del secolo scorso per trarne un'antica ricetta. E questo lo scopriremo perché le donne di casa, essendo il 24 sera, stanno preparando il pranzo per il dì di festa che seguirà. Certo. E mentre lavorano parlano così. C'è una madre, una vecchia madre, c'è la prima nuora, la seconda nuora, una giovane figlia che è molto più sveglia delle altre perché lei ha la fortuna di avere frequentato la scuola fino alla terza elementare e quindi sa leggere e scrivere, cosa che nessuno degli altri sa fare. E il discorso è pressappoco così. La vecchia madre alla prima nuora. Beh, Niese, l'ora statteccia? Guardi mare, go messo il tocco de stracuo de mascio nel teccion. Lo go coverto con la latte un bicer de aseo. Ghe go son tasseo, l'asaeno, carote, erbe aromatiche e anche una stanta de baserigò. Ciò, tosa. Non te gavarei di smentegare le brocche di garofero? No, no, mare, le go ben contappare il profumo giusto. Per quattro dì gavemo tenduo tutto e mena ben perché il tocco de stracuro esse frolasse nel sottocetto. E da anco mattina che il pipa. Ah, che beo, ah, che profumo. E ciò, comunque, ascolte mare, ascolte, danco, prima lo go rosolà, poi lo go tolto su, messo la sale, l'olio e il pevaro, passa tutte le verdure, e il tocio e segà che ha tutto, cogosontà ancora seo, e adesso è il ga un color de oro scuro, di man so sicura che me messier il se godarà, stracuo e polenta calda, toccio da lecarsi i dei e dirà, altro che storie. Quindi questo straculo di mascio, spero che non abbia offeso le orecchie di nessuno, perché ricercando nel vocabolario, naturalmente volevo essere sicura, no? E quindi questo culaccio, che è poi la parte posteriore, del posteriore dell'animale, ecco, è un pezzo molto, molto morbido, che prende tra l'altro nomi diversi a seconda del le regioni d'Italia, quindi nel Veneto si chiama straculo, a Roma lo chiamano pezza, a Napoli mi pare che lo chiamino scanello, quindi o scamone, quindi nomi diversi, ma tutti ad indicare questa stessa parte del corpo dell'animale. Quindi ecco, il straculo de mascio era un pezzo molto importante che veniva tenuto appunto proprio per il pranzo di Natale e che veniva cucinato nel modo che racconta Agnese. Lo facevano in umido, in sostanza? Sì, praticamente sì. Sì. Beh, era un umido senza pomodoro, sì. Ecco, però era di tutte le erbe, ma il fatto bello era che veniva tenuto per quattro giorni a frollare. Pensa un con po'. Tutte queste erbe aromatiche, sì. Con latte ed aceto, e poi dopo il quarto giorno, che lo avevano ben ramenato, diciamo in Veneto, e lo mettevano sul fuoco e lo lasciavano andare, e quando che era quasi cotto ci aggiungevano ancora, ma io credo che noi oggi faremmo vino bianco e non aseo, aggiungevano invece il loro aceto e quindi prendeva questo colore scuro e poi veniva servito a fette. Però con diventa più, diventa sì, diverso, più forte, più giusto, più forte per la carne di maiale. Sì, noi sì. A Mantova lo usiamo tanto il l'aceto, lo so, a Mantova, sì. Ecco, sì. Ma qui io pensi che quando scrivevo Davanti un'ombra, questa commedia che è stata edita ancora nel 75, sì. Mi fu raccontato questa ricetta da un caro amico, che tra l'altro era un personaggio di questa città, ecco, il signor Bordignon, e quale mi disse, dice, Elite, la gada metter che dentro una ricetta di Nadai che è una maraviglia. Ah, dico, davvero? Sì, è stracuro di mascio con la latte e la seo. Ecco, quindi da qui è nata questa poi, che questo pezzo di commedia nella quale c'è la preparazione del pranzo di Natale. Ecco, una cosa che invece ancora c'è in questa stessa serata è il ricordo delle onoranze che era dovuto ai signori in occasione delle feste. Ecco, e allora a un certo punto la vecchia madre chiede alle figlie, ciò tose gavir pare ciò per le onoranze, perché di man una di voi altre andare con vostro padre e vostri fratelli a fare gli auguri al conte e alla contessa. Ah, le onoranze sono gli auguri. Una tradizione. Sì, certamente, lì. Le onoranze per tradizione. E allora naturalmente le ragazze come commentano? Gli auguri degli uomini, auguri e caponi, altro che auguri, ecco. E la ragazzina più giovane, che naturalmente è il personaggio di spicco, è il personaggio di stacco soprattutto nella commedia, soltanto perché lei sa leggere e scrivere, a un certo punto sbotta, investe la madre gridando e dicendo i paroni, bravi e buoni i vostri paroni per spissedarmi il culo, le onoranze, e che onoranze, se pareccia tutto, non stai aver pensiero, tre caponi bianchi che par tre priori, quattro dosine de ovi grossi, co fai sassi de abrenta, lua pibea de crisole in granaro, e un tocco de buttiro fresco, grande accusita, e ancora una bottesea de vin santo. Ecco, e ancora aggiunge la ragazzina quasi con amarezza, perché la madre dice, tutto dovuo putea, tutto de diritto. E la ragazzina inquieta dice, sarà contenta la parona, e spero che la me vardarà sul muso, e non la troverà da darmi da far qualcosa, anche domani, che se ne dai. Darò solo, perché me pare gaditto che goda dirgli che me marido in primavera, e invitarla a nozze. E la vecchia madre, non sta a essere villana tosetta, da parona, la se la parona e basta, vorrei proprio veder che i caponi fosse stravani e gli ovi slossi. Comunque c'era veramente simbolo così, di sottomissione, è una realtà così, che realmente esisteva. Certo. E vi dirò che nelle mie ricerche mi aveva molto colpito, perché venendo da una diciamo da un modo di vita diverso, di una grande città come Roma, io sono nata in un ambiente impiegatizio, quindi voi capite che questo tipo di discorsi non li avevo mondo mai diverso sentiti. Proprio erano molto lontani anche dalla mia prospettiva di vita, quindi mi sono rimasti dentro proprio queste cose, il discorso del San Martino, delle persone che venivano allontanate, esatto. Se non non erano abbastanza condiscendenti nei confronti di questi padroni, no? Le onoranze, sì, ma a parte che ancora anche dopo la Seconda Guerra Mondiale in alcuni luoghi e per alcune prepotenze c'era addirittura lo ius prime noctis. Ecco. C'era anche il parroco dei paesi che a fine anno aveva la sua il quartese. Sì, sì, certo. Quello senz'altro, ma sa, quando c'è di mezzo la religione, la gente era più convinta, certo, forse, no? Nei confronti invece dei loro come mezzadri, nei confronti dei paroni, c'era sempre un po' questo livore, perché era imposto, non era una cosa che partisse dal cuore, insomma. Anche perché non ne capivano diciamo la liceità, no. Anche perché i campani una volta sudavano sia gli uomini che le donne. Io ho visto veramente proprio toccato con mano proprio nella zona di Treviso, negli ambienti verso, dunque sono stata ad insegnare a Volpago del Montello, sì. Ecco, e c'era tanta miseria, c'era tanta gente che veramente combattevano il pranzo con la cena, insomma. Anche se la campagna ha un fascino, sì, la vita contadina ha un bellissimo fascino come luoghi, poi lì con il Montello è una meraviglia per quello, come natura dei luoghi, però che la gente avesse vita dura è un dato di fatto. Altro che è un dato di fatto, signora. Mi ricordo che alla sera le mie amiche in campagna, beh, io sì. parlo del Mantovano, vabbè, comunque siamo sempre lì. Certo, insomma. Certo, la vita dei campi è sempre la stessa. Queste ragazze che lavoravano tutto il giorno, la sera mangiavano polenta e rane. Ah, sì, sì, no, niente di più. E guardi che anche qui da noi, sai, poi qui da noi c'era anche un lavoro molto duro che poi invece è andato finendo, proprio lì nel Trevigiano, quello della filanda. Esatto. Ah, la filanda, da fitta, delle donne che andavano a cavalieri. Lavorare in filanda, sì. Ecco, c'era con turni continuati, per cui io le sentivo di notte passare che cantavano. Ecco, eppure erano più allegre di oggi. Erano più allegre di oggi, ma evidentemente sì, ma chi lo sa, ma d'altra parte la vita è bella per questo, perché trova sempre i suoi significati e spinge in avanti, e spinge in avanti. Allora io dico che questa visione di questa cucina contadina è così, spero che vi abbia riportato almeno il profumo di questi mangiati preparati con tanta enfasi, no? Perché poi una delle nuore fa le tagliatelle e un'altra prepara il pien per la pitta, cioè facevano una specie di tacchino ripieno. Ecco, allora questa, allora dice, ah, mangiar da siori, tutte contente perché almeno a Natale, insomma, c'era tutta questa questa abbondanza che normalmente durante l'anno certamente non esisteva. E poi è un'altra cosa molto carina che mi è venuta in mente, che ho visto tante volte, era proprio la dolce visione sul far della sera del gruppo dei bambini della contrada che, reggendo una stella di carta illuminata da un fioco lumino, cantavano la stella di casa in casa per augurare il buon Natale, ricevendo in cambio un pugno di fichi secchi, delle mele, qualche cosa che era una specie di dolce mancia per questo augurio portato con tanta buona grazia. Sì, ecco. E poi anche al primo dell'anno venivano a prendersi i soldini. Certo, ma non so se lei se lo ricorda questo canto, il canto della stella, perché anche le, diciamo, era di tradizione orale, no? Se non ha autori questo canto. Sì, beh, sono cose andate così. Sì, proprio sì, no, era una tradizione orale che era su una musica quasi monocorde e le parole dicevano così: siamo qua con la grastea per dorare Maria e Gesù, siamo qua con la novella che è nato il Redentore. I pastori fanno allegria che è nato il Redentore, e è nato in una stalla fra il bue e l'asinello. Poverina la sua mamma, non sapeva cosa far, la se leva il vel di testa per coprire il bambin Gesù. Noi cantiamo la pastorea, la cantiamo di vero cuore, ringraziamo tanto della carità ben fatta. Non è più tempo da aspettare, che bisogna seguitar, se vedemo un altro anno. Queste erano le parole molto, che cantavano. Molto suggestiva, molto bella. Sì, ma poi cambiava anche da contrada a contrada, però c'era sempre il racconto della nascita di Gesù. Esatto. E portare la novella che è nato il Redentore, insomma, questo io lo trovavo molto bellino, anche perché nelle grandi città queste cose non si vivono. Non si vivono nel modo più assoluto, quindi ecco, io l'ho trovato sempre una cosa, questa veramente molto dolce, no? E anche mi ricordo di averli visti, poi venivano da me a cantare anche davanti alla casa della maestra, ecco, e poi il piccolo gruppo che si allontanava nella notte, ecco, lasciandoci così questo ricordo di cose tenere, di cose dolci, di cose della nostra infanzia. Ecco, a me legata alla mia infanzia e che ritrovo e che ce l'ho in mente tutti, c'è una poesia in particolare che è La notte santa di Gozzano. Ah, che bella che è. Ecco, La notte santa di Gozzano, sì, nella sua ultima parte è di una bellezza semplice che incanta. Ecco, io credo che molti di voi l'abbiano certamente studiata, recitata davanti al loro presepe, ecco, e quindi cogliendone l'alto valore desidero riproporvela con l'augurio più sentito di ogni bene, ecco, a voi e a tutte le vostre famiglie. Allora, La notte santa, io proprio è una cosa che mi commuove ogni volta. Ma anche a me ha sempre commosso questa poesia. Ecco. Sì, sì. Dunque dice: alleluia, alleluia, è nato il sovrano bambino. La notte che già fosse buia risplende d'un astro divino. Orsù cornamuse, più gaie suonate, squillate campane, venite pastori e massaie, o genti vicine e lontane. Non sete, non molli tappeti, ma un poco di paglia per letto, lo scaldano un asino e un bue. La madre lo stringe al suo petto. Per 100.000 anni si attese quest'ora su tutte le ore. È nato il Signore, è nato nel nostro paese. La notte, che già fussi buia, risplende d'un astro divino. È nato il sovrano bambino, è nato! Alleluia, alleluia. Io trovo che è natalizia fuori di misura. È molto bello, molto bello questo pezzo. Sì, sì. Questa è l'ultima parte, perché la prima racconta tutto il viaggio. Sì, con Maria, con il campanile che suona. Sì. Ecco, è l'ultima parte, è proprio l'alleluia. Sì. E io veramente, è di una semplicità, ma di una bellezza molto, profonda. Molto. Ecco, desideravo poi raccontarvi un'altra cosa. Sì, vabbè, allora ci ascoltiamo una... Ascoltiamo una musichetta e poi vi racconto un'altra cosa. No, volevo dire che a me, personalmente... è sempre piaciuto quel viaggio che fanno Giuseppe e Maria. È vero? Mi ha sempre... proprio, il consolati Maria del tuo peregrinare. Siamo giunti, ecco per te. Ma poi che non trovano posto. Che... Sì, certo, che vanno dai vari osti del Moro, pietà di una sorella. Sì. Ecco, molto... E poi io, per esempio, la facevo drammatizzare a scuola, quindi i bambini se la godevano proprio, no? Perché diventavano tutti personaggi di questa poesia. Ecco. Però la vera essenza, secondo me, è proprio il finale. Il finale, ecco, l'alleluia è proprio bellissimo. Sì, ecco. Allora io non ho voluto raccontarvi tutto, benché la so tutta a memoria, però questo mi piaceva. Io dovrei leggerla. La rilegga, signora, la ricerca e la rilegga. Ma abbiamo letta noi con Antonio... non so se l'anno scorso o 2 anni fa. Benissimo. Ogni anno me la ritengo a mente tutta. Anche perché, per carità, quante poesie di Natale abbiamo studiato, tante. C'è quella del Pasqua, quella di Ungaretti, è quella molto di Ungaretti, bella. Che sta solo davanti al fuoco. Ci sono delle cose che proprio bellissime nella nostra letteratura, anche in quella dell'Ottocento. Ci sono delle cose molto belle. Ecco, poi io devo dire la verità, ho anche una grande raccolta di poesie dialettali che mi mandano gli amici, e così, e sono tutte cose belle, tutte cose che... No, sono veramente belle. Signora, ci fa vivere in un mondo... Vabbè, dai, ci ascoltiamo, bellissimo. Grazie. Ci ascoltiamo Blue Christmas, sarà azzurro Natale, penso. Cosa dici, Antonio, tu che sei... plurimi significati, diciamo. Ecco, vabbè, la canta il nostro Bobby Solo. I'll have a blue Christmas without you. I have a blue Christmas about you. Decoration of red on a green Christmas tree. One little thing, if you're not here with me, and when that blue snowflakes starts falling, and when those mean breezes keep calling, you'll be doing all right with your Christmas of white. But I have a blue Christmas. I have a blue Christmas without you. I'll have a blue Christmas about you. Decorations of red on a green Christmas tree. One minute thing, if you're not here with me, and when those blue snowflakes starts falling, And when that mean, mean breeze keep calling, you'll be doing all right with your Christmas of white. But I have a blue, blue, blue, blue Christmas. Ed eccoci di nuovo in studio. Ricordiamo che questa canzone è la versione naturalmente italiana, italiana nel senso come esecuzione di una famosa canzone di Elvis Presley. Ed ecco così la nostra signora Elida che ci racconta ancora queste affascinanti... Insomma, cerchiamo di raccontare quello che abbiamo in cuore. Esattamente, no? Questa è la cosa più importante. Ecco, niente di più. Ecco, allora il discorso della nostra Bassano, della poesia di Gozzano, credo che ci abbiano portati veramente in un mondo fantastico. Dentro questa piccola città, sì, anche sì, che sì, ha, sì, in questa occasione ancora una volta si è rivestita di luce, di colore, schiera nelle sue piazze un interessante mercatino natalizio, e vi circola un trenino sempre pieno di bambini, vi gira una splendida antica giostra per la gioia veramente dei più piccini, con questi grandi cavalli bianchi e neri, è la giostra di quando io ero piccola, ecco, non so con precisione da dove venga, credo dall'Emilia, e credo che sia una delle poche che è rimasta in Italia, proprio l'antica giostra a cavalli. E si ferma a Bassano tutte le feste? Viene ogni anno a Bassano, da tanti anni, varrebbe la pena io credo di venire a Bassano a fare un giro solo per vedere questa giostra che è un amore, e poi è sempre appunto ogni giro è corredato da belle musiche e così, e quindi queste musiche che hanno anche un po' sapore d'infanzia, dico io, no? Che ci riportano proprio in questo mondo che oggi è difficile, ma che però vale sempre la pena di scoprire, di vivere nelle sue pieghe più intime, insomma, no? Di ricercare le cose buone che ci fanno buoni, che ci aiutano a vivere con maggiore serenità. E si ha bisogno, sa, di queste cose. È vero, si ha tanto, è vero che bisogno, c'è bisogno, perché sì, veramente ecco, delle volte non sappiamo più. Ecco, allora io volevo un piccolo suggerimento, lo volevo dare invece alle nonne quest'anno. Ecco, in occasione del Natale scrivere una letterina di Natale, perché no? La magia della letterina di Natale di quando eravamo bambini, no? Sì. Ecco, delle volte a parole si fa più fatica a dire. Io dico che sarebbe una sorpresa per tutta la famiglia a tavola di scoprire la letterina della nonna. E scommetto che lei l'ha scommetto che lei l'ha scritta. Perché no? Anche perché scrivendo, insomma, si riesce, sì, proprio, certo, a sentire, a comunicare con maggiore leggerezza, no? Certo. A dire a cuore aperto quello che a volte a parole, insomma, riesce è difficile, più difficile dire, con i nostri nipoti, no? Ecco. E poi legarla soprattutto a ricordi di un tempo andato, no? Certo. Io mi ricordo che il mio babbo era, il mio buon papà, era un maestro nello scoprire le nostre letterine ad una, tra una mancucchiaiata di tortellini in brodo e il tradizionale cappone lesso. Ma sarebbe, ecco, bello sentire le lettere delle nonne adesso. È vero, però penso che le lettere delle nonne potrebbero essere belle. Io le ho voluto legare a questa immagine, no? Le pause allora tra un piatto e l'altro per noi bambini si coloravano della nostra, sì, emozione proprio, no? Certo. Ecco, celate, dico io, dietro il tovagliolo di fiandra bianco, perché mi pare ancora di vedermi che con bello il tovagliolo girato sugli occhi, perché mi veniva da piangere mentre papà leggeva la letterina, nella quale le promesse e le scuse si alternavano più o meno sempre le stesse, ecco, ma da foglietti così teneri e scelti con tanta cura, ve le ricordate quelle immagini piene di lustrini d'argento, ecco, dove c'era il bambino Gesù, sì, piccolo, sì, piccolo, con delle capannine, proprio, non so, tenere, ecco, e poi questi famosi lustrini che, sì, io che mi ricordo, finivano a mescolarsi con l'uetta pelata diligentemente dalle fette di panettone, ecco, ecco, quindi e questo poi gran finale della poesia detta in piedi sulla seggiola, ecco, erano delle cose veramente imparate in segreto, tenute segretamente fino al momento dell'espoir, della grande recita. Noi bambini ci sentivamo dei grandi sì, sì, tutti, cioè, noi, cioè, dicevamo, cioè, la poesia di Natale, certo. Adesso dice non usa più, no. Ecco, anche io ho chiesto al mio nipotino, ma la poesia di Natale l'ha imparata? No, poi dopo mi sono però spiegata la cosa, la multi multietnicità, sì, esatto, sì, le tante religioni, esatto, dei nostri bambini anche nelle nostre scuole, naturalmente hanno il discorso deve essere fatto in un certo modo, in un altro modo, insomma, anche perché tutti i bambini hanno diritto alle loro gioie, ai loro momenti, certo. Quindi no, ecco, allora proprio mi sono spiegata questo, ho detto allora ha fatto bene la maestra, li fa cantare, cantano tutte le canzoni di Natale, sì. I bambini stranieri, vero, cantano le loro canzoni, ecco, di modo che ci sia un significato per tutti in questi giorni di vacanza. Di condivisione con un linguaggio universale. Un linguaggio universale, è un linguaggio universale che però ormai è vissuto in modo diverso. Deciso. Ecco, certamente per noi l'idea così della letterina di Natale di quando eravamo bambini e della recita della nostra poesia era un momento magico. Si ricorda, direi, i burattini che d'inverno facevano spesso le recite con i burattini, anche le recite con i burattini, bellissime. Beh, ma da voi c'è una tradizione molto bella e molto antica dei burattini nella zona, nella sua zona, signora, sì, nella, sì, zona dell'Emilia Romagna, molto bella, sì, effettivamente. Sì. Ecco, qui da noi meno, ecco, i veneti sono sempre stati più parchi, più silenziosi, più chiusi, ecco, però allora atavismo di terra, poverini, li portava a guardar basso, ricordo con tanto amore i burattini, mi piaceva, cioè, tantissimo, credo proprio di sì. Tutte cose che sono rimaste sono curiosa mi piacerebbe, sì, ascoltare una lettera di una nonna A me anche. Beh, senta, potremmo fare così, noi lanciamo l'idea, esatto, delle lettere delle donne, un trend, donne. Se qualcuno si sente di mandarla alla vostra radio, voi potete anche dire mandateci le vostre lettere, le classificheremo, le leggeremo con piacere e certamente alcune saranno rivolte anche agli spettatori. Agli ascoltatori, sicuramente, non agli spettatori. Una cosa peccato originale. Che lei non ne abbia qualcuna da leggerci, ma io no. Io devo scriverla ai miei nipoti, la mia letterina di Natale, no. Ma non l'ho ancora scritta, ecco, spero invece che di riuscire a dire quello che ho in mente di dire, ecco, ai miei nipoti, che naturalmente vivono il loro tempo. Ecco, una cosa sola vorrei che da queste lettere venisse, dire ai nostri figli: abbiate speranza in cuore, anche se i tempi sono quello che sono, e spronare tutti i giovani a credere nella vita, perché il suo dono è come il sole che torna ad ogni alba, perché ogni giorno, anche il più oscuro, se legato ad una buona parola, troverà luce. È vero, signora, parole sante. Ecco, allora vorrei che noi come nonne, ecco, io dall'alto dei miei quasi 85 anni credo di potermi considerare veramente nonna Elida, bastardo del Grappa. Lei, ecco, è fantastica. Ecco, allora, ecco, io dico ai miei, dirò soprattutto questo: abbiate speranza, abbiate fiducia, siate buoni tra voi e con tutte le persone che vi stanno accanto, che vi vogliono bene e che si preoccupano di voi, anche della vostra educazione e di tutto. Sappiate rivolgervi agli altri con un tono buono, un tono affettuoso anche, nel saluto, nell'abbraccio, in tutto quello che è manifestazione di carità, la carità dei sentimenti, della dolcezza di quello che portiamo in cuore. E per il resto, ancora, buon Natale. Grazie, a tutti, signore, grazie di e tutto. E un carissimo abbraccio. Grazie anche a lei, un abbraccio forte e a risentirci in seguito. Sì, me lo auguro. Ecco, me lo auguro. Grazie, signora. Ecco, buone cose a tutti, grazie, voi. Grazie. Buon Natale. Grazie. E ci sentiamo naturalmente, bene, la prossima canzone. Antonio. ci sentiamo la prossima canzone, che è in spagnolo questa volta, sai Antonio? Sì. È di Michael Bublé. Feliz Navidad. Navidad, felice Natale. A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré, y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz. Con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Ed eccoci di nuovo in studio per l'ultimo così frammento di tradizione, e dal libro di Bruno Lorenzon, Drio Arestera, che è una delle opere naturalmente di tradizione veneta. Volevo leggere qualche anche frammento. Sì, sì, c'è anche qualche ricetta, esattamente. L'arte culinaria nel Veneto non è seconda a nessuno, e i piatti tipici della cucina trevigiana, dalla soppa coada al risotto alla sbiraglia, dall'oca rosta ai risi e bisi, sono molto apprezzati e godono di una fama che supera i confini regionali. Attualmente il radicchio sembra farla da padrone e trova facile collocazione ovunque, ma un tempo doveva contendere questa fama ai frati, le erbe, non i religiosi, ai bruscandui, germogli di luppolo, ai sciopetini e ai funghi, ciodetti e piopparoi. Tornano in auge anche i fiori de succa e perfino i fiori de gasia, che costituivano peraltro, insieme con la pinsa all'Epifania, le fritoe a Carnevale e la fugassa a Pasqua, il dessert delle nostre famiglie. A dire il vero, i pasti consueti al di fuori delle solennità religiose e di particolari circostanze erano piuttosto frugali e non prevedevano una grande varietà di piatti. Le donne si servivano di quanto era reperibile sul posto e mai, come allora, trovava riscontro il detto ogni frutto a suo stagione, sì. Esattamente. Con la vita dura che si faceva, specialmente in campagna, ed il gran numero di scodelle da riempire, la fame era una condizione frequente e raramente uno poteva alzarsi da tavola pasuo, cioè sazio, tanto che anche fra i cristiani c'era chi pareva nato dopo Asensa, l'ascensione, come si diceva, dei gatti magri e spelacchiati. Quando gli capitava, il magnava a quattro ganasse e magari de stramuson e faceva nettissia de tutto, con o senza companasego. La polenta è stata per lungo tempo un mito sulla mensa dei nostri avi, ma essa non ispirava nessuna poesia, anche perché la pellagra non la faceva apprezzare come forse meritava. Sostituirla col pane di frumento non era facile. Il pane era considerato un alimento di lusso e, al pari del brodo de gaina, veniva riservato ai convalescenti e alle puerpere. In quarantena. Esattamente. Anche più del pane era considerato un lusso la carne. L'astinenza del venerdì era un precetto facile da rispettare. Essa veniva sostituita parzialmente come apporto proteico dal largo uso che si faceva di fagioli, freschi o secchi, da consumarsi consi oppure in minestra. La pasta e fasioi veniva ottima anche la sera, quando la si consumava insieme col radicchio, densa al punto che il cuciaro che stava impiantà. La minestra era il simbolo della dignità dell'uomo che lavorava, appunto per ciaparsi un piatto de menestra, da dividere magari cristianamente con chi era più disgraziato. A casa mia un piatto de menestra te lo troverà sempre. Un altro ingrediente della mensa era, insieme ai fagioli, il raiccio de campo, quasi spontaneo nelle colture intercalari delle viti o del frutteto, che veniva consumato tanto crudo che cotto in teccia, reso appetibile con sisso ed ardo e con spigolo de aio, e che passava per la famosa bistecca de orto. Fortunatamente, ai lunghi periodi di scarsità, se non di carestia, durante i quali bisognava ingegnarsi in qualche modo per mangiare a sufficienza, perché non se vive de aria e del resto sacco vodo non sta in piè, seguivano, come abbiamo accennato, quelle occasioni speciali di cui tutti s'abbuffavano, convinti che quel che non soffega ingrassa, vuoi per uno sposalizio, vuoi per la festa del ringraziamento, quelle due o tre volte l'anno che capitava di trovare in tavola roba da ciucciarsi i dei e da essergene d'avanzo, i che dava dentro con impegno e non esitavano a dividerla con i più prossimi. Bello. Antonio, eccoci, dobbiamo fare anche gli auguri ai nostri ascoltatori. Naturalmente, ai nostri ascoltatori li facciamo in modo molto sintetico. Tanta serenità. Tanta per serenità. Tutti. Poi li ha fatti la signora naturalmente in maniera stupenda. In maniera egregia. E noi ci risentiamo la domenica dopo l'Epifania. E che Dio ce la mandi buona. Dio ce la mandi buona. Allora, auguri a tutti. Un abbraccio forte a tutti. E come sempre, ciao ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.